ci siamo fermati un attimo qui per dare solo un'indicazione, magari dopo si pensa di fermarci sulle scale in Piazza San Firenze per spiegare un po' meglio, perché qui c'è un'insegna, Caffè Mocarico, che insieme a un'altra torrefazione fiorentina, oltre a avere, ora qui si vede poi, già l'hanno cambiato un po' il logo, l'ha aggiunto l'istituto Martabacchi, cioè c'hanno dei loghi pazzeschi, ora dopo si farà, magari se tu ce l'hai, e sono due aziende fiorentine che sotto il fascismo nella la conquista diciamo, dell'Etiopia hanno depredato diciamo, territori e hanno depredato anche, cioè ci hanno messo, hanno sostituito le proprietà locali e si sono accaparrate questi appezzamenti di caffè che poi successivamente veniva portato in Italia e poi successivamente dopo la torrefazione veniva venduto sostanzialmente. E quindi appunto questo è un esempio diciamo, della depredazione diciamo, del suolo e delle risorse etiopi. Ora, queste due aziende, Mocarico e Mocalux, ci sono tuttora. La Mocalux è questa. Ora è nella zona di vicino ai Pratignoli, vicino dove c'è la CKN. Il suo logo è ancora questo qui. Questo è il negretto che porta il caffè ai bianchi, chiaramente. In altri ci sono. Tant'è che c'è scritto qui 1920, poi successivamente il colonialismo italiano. Ce n'è anche un'altra, la Mocarra. Non so se qualcuno l'ha vista. Se la ricorda. E che prende il nome da una località dell'Etiopia, probabilmente una delle più belle località del mondo, secondo me. Anche secondo lei, questo, che siamo stati. E che appunto è lì vicino al confine della Somalia, tant'è che lì parlano arabo, comunque sono di religione islamica perché è proprio vicino alla Somalia, a differenza del resto dell'Etiopia, e che appunto prende il nome in questo caso dalla città e che appunto utilizzava le piantagioni di caffè della zona per appunto prendere il caffè e portarlo in questo caso proprio a Firenze e facendo la torrefazione e poi successivamente. Cioè qui è proprio un chiaro esempio di appropriazione, nemmeno di sostituzione di una risorsa locale con un'altra, proprio di depredazione di una risorsa locale per i propri fini sostanzialmente, con l'aggravante culturale diciamo di avere questi marchettini qui. Se uno va lì al Pratignone c'è il logo bello gigante con dentro tra l'altro le foto del periodo dentro l'edificio, la torrefazione delle foto del periodo coloniale. Insomma. Eccola qua.